orquesta, Lenari Flexión, que me veño de afán, en un momento Cristo, si se alza la mañana y cada la mañana, per questo y es contenti, sarei giusto così. Ci se alza la mattina e conta i miliardi che riga, e noi è mai contenti, questa è la verità. Amico qua, amico là, amico su, amico giù, amico mare, amico monti, una diezina dei castelli mi voleva per sé. Basta, mi non ho più parole, se voi altri che ne avete, mentite che le cure.